significativo. No, non avrei avuto motivo se non quello di farti gli auguri, ma non sono, perché c'è qualcuno che ti ha telefonato e non sai chi è. Sì, ha telefonato una persona, ha detto a meno che non sia Fabrizio, che ha dato il numero mio di telefono di casa, e da nome nativo si chiama Antonio, mi sembra. No, il nome non ne ha detto, no, devo pensare a te. Sì, qui, a parte che di Antoni siamo un bel po', E beh, cosa hai preso? Che so cosa ho preso? Peccatura, non hai preso nulla. Negativo, ancora niente, se non un lineare, perché mi si è bruciato di nuovo quello switching che avevo, il 6045, e allora ne ho preso uno lineare adesso da 35A, però con trasformatore. Ascolta, ma c'è qualcheduno nuovo qua a Rockefeller dove vendono le moto? Dove le vendono a Rockefeller le moto? Ah, su, sì, assolutamente, l'ho messa io con la stazione. Dove c'è appena più su della Suzuki? C'è una Ringo, l'ho messa io. Ah, è la tua o è uno nuovo? L'attivo, è uno nuovo, sberla. 27? Vedete in che senso? 27 modula? Sì, KK, c'è una Ringo, se guardi è una Ringo da 27, sì. Sì, già lo so. Che cosa è Salvatore? Non sta più entrando. Negativo, l'ho sentito, cioè il negativo nel senso che sta entrando però saltuariamente. So che, come giustamente succede quando prende una patente, un attimino puoi spaziare giustamente nelle altre bande, quindi lo sta facendo, per quanto lui adesso abbia solamente l'HF, no? Ah, capito, no. Infatti io volevo sentire se mi capita, neanche la sigla so, così almeno lo pizzico subito. Beh, a parte che la voce è indistinguibile, però credo che abbia una X finale, una X-Race. S0 CTX, ciao a tutte e due, vi sto ascoltando. Oui, ciao Claudio. CTX, così hai detto? Sì, c'è all'interno lo xilofono. Claudio, però credo che sia sui 28 MHz ogni tanto, mi è parso di averlo incontrato. Sì, ogni tanto siamo io e lui a Massimiliano a 28.400. Vabbè, continuate, però vi sto ascoltando, ciao a tutti. Buonasera a tutti. Ok, ciao Claudio, buona serata. Giorgio e Claudio, buon Rix. Niente, però l'ho sentito anche un paio di giorni fa, però giustamente sta battitando altre bande adesso. Beh, vuole attassare. Mi sembra di sentire Bombolo sotto, eh. Ah, da Luca! Tipo, non è Luca. Non è Luca Bombolo. Ho sbagliato, mi sembra Massimiliano, vero? È attivo. Oh, mamma mia, lo schizzo doveva essere un vinello. Abbiamo una buchetta di Zighito. Non mi ricordo. Ormai uno sono. Buonasera, non so se ci siamo sentiti. Mi sembra Leoncino sei tu. È Leoncino, io sono Antonio. Antonio Bombolo. Mi sono sbagliato, cazzo. Via. Deve essere quello spumantino, Anto. È il capo, perché te l'ho detto, lo devi tappare prima. Hai capito quanti siamo in frequenza che ci chiamano Antoni? Sì. Ok, non è successo niente, Bombolo, non ti preoccupare, nonno. Capita che a volte scambi una persona per un'altra. Scappa, l'ho scambiato sì, ho fatto una gaffa. Un attimo che finisco di fare questa cosa, un attimino solo, Buonasera comunque, come uno. So se è la prima volta che ci sentiamo, Bombolo. Non è che posso modulare tanto qua, perché se no disturbo qualcuno nei dintorni. Caffa, già ci siamo sentiti. Adesso ero da parecchio che non l'accendevo, no? Perché io ascolto altre cose. Per quello faccio dei passaggi brevi per evitare di disturbare qualcheduno, perché c'è una palazzina dietro di me che dice che TV è il nastro. Sì, basta mettersi bene le cose. Ma è un appartamento solo, Emi, non tutto il palazzo. Allora di metterci bene le cose come si deve. Perché vuol dire che c'è il decoder che non serve a niente. Tu, cosa vuoi ti dica? Ma quel rem ne hai tu per caso? Ogni tanto mi arrivano delle scariche. Non lo so. Vuol dire che c'è lui difetto, non sei tu in difetto. Claudio. Un decoder che l'ho tirato a terra perché mi ha fatto incazzare. E non serviva a niente. Prendeva tutte le furie. Può capitare. Claudio, ci sei un attimo? Claudio non mi risponde. Oh, Claudio, non lo so, ci sarà assentato. Bambolo, scusa un attimino, ma io mi devo assentare 5-10 minuti. Casomai ci sentiamo dopo. Ok, capa, dai, ce la sentiamo dopo. Eccoci. Ora, cambio. Attenzione Claudio Sparviero. Chi c'è? Buonasera. C'è anche te. Ciao Bombolo, mi hai sentito? Zitto. Sono Soletto. Ma sono Soletto. C'è nessuno. A quanto pare. Il doppio room, di regola c'è sempre. Vabbè, dai, pazienza, no, non c'è nessuno, e che vuoi ti dica? Le feste. Ho detto le feste, sicuramente in mezzo alle feste, la stanchezza, la voglia di non fare niente. Bene. Una cortesia, però fai, ti viene bene darmi un controllo di radio? Sto bene. Come segnale? Segnale non ce l'ho, Smitter, ma comunque su per giù c'è Santiago 8 qua. È abbastanza comprensibile, sì, no, sta facendo le troppe. Ma va bene come radio. Aspetta un attimo, ne cambio un'altra e mi dici se c'è differenza. Sta facendo le troppe, adesso, no, naturalmente oggi c'è umidità, no? Mi segnava sempre stazionarie la sera. Poi l'ho dato una pulita, l'ho sistemata, ieri me l'ha dato un po' stazionario, oggi invece niente, è a uno, ma neanche si muove. Provo a andare a vedere se c'è differenza. Provo a vedere. Oh, guarda un po', se cambia qualcosa come radio. Sei molto più forte, sei. Un bel in più, vero? Fa. Guarda, abbassi un pochettino e va bene. E abbassa, aspetta. Guarda un po' così. Anzi, aspetta, qui un'altra cosa. Ecco qua. Guarda un po' se va bene adesso. Sì, va bene adesso. Stai usando un altro apparato. Ah, no, però strano, c'è un bel umidità fuori, le macchie sono completamente bagnate. Vabbè, si vede che da lì c'è un po' di umidità e oggi sembra tranquilla, vuol dire ho isolato bene, come li gira? Scappa. Ma no, io non ne ho stazionaria, la verità. Quasi 1,2, dai, neanche. No, qua la verità è questo apparecchietto che ho, diciamo, parte da uno. Proprio parte da uno, non si muove neanche di un millimetro. Però gli altri giorni invece mi saliva 1,3, 1,3, 1,2, 1,3, dipendeva, a volte era 1,3, poi scendeva 1,2, non rimaneva mai dai fermo, dai, a un certo punto. Certo, questa stamattina c'è il PL pieno di acqua, veramente isolato con la gomma vulcanizzante, è pieno di melma, allora con la pulita e sembra che stia andando bene adesso. Come è possibile che sia entrata l'acqua? E quello è. Infatti nella parte inferiore dell'antenna ha stretto bene, il giorno l'abbiamo piazzata, ben messa la gomma vulcanizzante, pure la gomma vulcanizzante ci avevo messo in altro isolante. Altro non è possibile, ho aspettato un po' due giorni fa, di mattina verso le 10, c'era una bella giornata, salito su, smontato, e come l'ho svitato, guarda che il piede era verde, proprio il deposito dell'acqua c'era. Non capivo, non capite neanche dove è venuto, poi ho dovuto anche aprirlo con la, col taglierino, ho dovuto tagliare la gomma vulcanizzante perché non la togli così facilmente. Una pulita e riavvitato e di nuovo ben isolato. Sembra che stia andando, però ieri me l'ha fatto di nuovo quel piccolo difetto, oggi no. Sempre la sera, durante il giorno è perfetto. Poi quando cala la sera c'è umidità, cambiava. Maledette sono. Ma comunque sta andando bene, lo girà, già va bene, già va bene. E niente, che ore sono? 10:15. Non si è sentito nessuno, lo girà. E oggi, cos'è combinato tutto il giorno a casa? Ho sentito a cosa ho sentito? Ad Antonio e a Claudio e poi all'altro, non mi ricordo il nome adesso. Tutto il giorno a casa mi ha detto, io lavoro. Ah, hai lavorato, sì. Io lavoro. Ma scusa, nelle spese c'è molti, facciano anche in ferie, vabbè che tu, giustamente invece sempre reperibile, diciamo alla fine, sai che i giorni di ferie non ce ne sono, vero? I giorni di ferie sono ad agosto e basta. Sono ad agosto, vabbè, ma non fai diciamo orari così tanto tardi, vero la sera? Io faccio dalle... vabbè, in generale però arrivo molto prima, adesso al lavoro. Faccio dalle 8:30 all'1 e poi dalle 4 fino alle 7:30. Poi se c'è da lavorare anche alle 8. Ah, vabbè, dai, già è un orario là abbastanza tranquillo. Già ce l'ha, diciamo, il tempo di riposare. Poi non penso che sia così faticoso, sbaglio. Io parto sempre prima, io parto sempre alle 3 da qua, per andare a lavorare, per prepararmi tutto, eccetera, eccetera. Ma ti volevo dire, però diciamo il lavoro non è così faticoso, se tu lo gestisci tu, dai, rimane un po' più flessibile. Dice, il lavoro è faticoso, è come? Sì. Ma guardando così proprio non mi ha fatto, diciamo, non mi sembra, anche se giustamente il peso c'è. Diciamo, però ce ne hai i momenti per riposare, capito? Riesci subito a riprendere le forze. No, quello sì. Ma tu già lo sai che lavoro faccio io. Per la fine bombolo, no? Porti le bombole. Scappa. Qua a Sassari non è come in paese, qua quando esce lavoro sono cavoli tuoi. Invece anche molto veloce lavorando. Beh, quello sì, non devi far aspettare la clientela, dunque dovresti accelerare un po' il passo alla fine col mezzo per essere puntuale e non farli aspettare. Ma devi essere molto sbrigativo, se no già ne fai consegne. E quello già è vero, sì. Alla fine c'è tutto Sassari, è arrivato c'è pure, c'è un circondario ben stabilito. Tranne nella zona dove abito io, è rarissimo che consegno, tutto il resto consegno. Quello già va bene allora, dai. L'importante è che ci sia il lavoro, se no guai. Cappa. Ehi, ogni giorno si fa, perché ce lo lasciano poi, se la prende il culo, cosa devi fare? Invece anche in paese, per dire, hanno fatto l'impianto, almeno ci sono stati 2 anni e mezzo di lavoro, hanno fatto in paese a volte, diciamo, la condotta del gas. Però la verità che ti dica, sono pochissimi che ci sono collegati alla rete, dando anche la possibilità che si collegava in un giorno prestabilito di un mese, facendo una domanda, avevi, diciamo, il collegamento gratis, ma ti giuro che veramente molta poca gente si è collegata alla diretta. E scappa, la Medea c'è, anche lì, o in un'altra società. Ti giuro che questo proprio non lo so, mi sono mai informato, non lo so, veramente chi la gestisca, non lo so, però vedi, conta, in 6.500 abitanti quasi, che ci manca poco, oh sì, di bombolai ce ne sono tre, non di più, sì, tre ce ne sono. Scappa. Già, ma lì fanno tutte consegne così, non ne fanno piane, ci sono tutte case basse a oggi, non è che abbiano molto da fare. E non perché ti, qua a Sassari devi fare un, devi fare un culo più mano di te per lavorare. Già me lo immagino, ho fatto immobiliare per anni, consegniamo la maggior parte di immobiliare a Sassari. Bene o male, se è fortunato c'è l'ascensore. Quello sì, e altro invece, le zone, la zona più brutta secondo me, brutta per morire perché mi piace, Sassari vecchio. Poi sono quelle rampate di scale paurose, lì già è brutto portare le bombole, e anche i mobili o divani, che a malapena riuscivamo a farli passare. Più, diciamo, più difficoltà è Sassari vecchio alla fine. Ma tu non ti credere che c'è solo Sassari vecchio, no? Ce ne sono portoni che non hanno ascensore qua a Sassari. Sì, quello già è vero. Da zona semicicli e dintorni, alcuni non ci sono perché giustamente per non rovinare la, diciamo, l'appartamento, quelli abbastanza vecchiuti, diciamo, per non rovinare all'interno, dunque tu devi fare a piedi. Almeno quello sai cos'è, che le sale sono larghe e abbastanza numerose, almeno ci passi tranquillo, poi fino a su a piano. Scappa. Già ci salgono. No, non è solo quella zona. Non è solo quella zona. Ce ne sono, io ti assicuro che ce n'è anche dentro città di così senza ascensore. Di palazzo senza ascensore. Dalla parte di Postoli, la parte di via Simple, la parte di via Genova. Lì ce ne sono, via. Ceres, cosa stai facendo? La gatta stavo riprendendo. Andava combinando. E capo, è salita sopra il coso. Vieni qua. Mi intanto fa la momentina. Quindi un terremoto nero. Cos'è, maschio scommetto, no? E femminuccia. Almeno ti pisce i mobili. Un altro che è maschio, quello nero. In casa non fa niente, o no? Ti tappeta tutta la casa di merda, di piscio. Poi ne avremo uno noi a casa a vedere se non... L'ho regalato subito, è una cosa impressionante. Con il contenitore della sabbia, però non c'è l'avverso di farla lì. No, loro la fanno nella sabbia, sono educatissime. È meglio così. Poi volevo dire, ma quando capita a venire qualche consiglio, sono quelle bombole grandi, io non so da quanti litri possano essere, sono un bel grandi, giustamente si va in due a consegnarle quelle. Due? E consegno io le consegno. Quanto sono quelle, le più grandi? 20 da 25, poi ne portiamo anche alla spaghetteria, portiamo quelle a 62. Comunque alla fine quanto dovrebbero pesare? Non sei una settantina di chili? E intorno ai 58 kg pesano quella 25. Quelle là, quella 62 kg si pesano davvero. Però quelle lì le scarico lì, a puntata dell'Ugoipo, le scarico lì a terra, ma vogliono scaricate sempre dalla macchina. Quelli pesano 140 kg. E infatti quello volevo dire, beh sì. Qua c'è un bel problema, infatti per quello ti ho detto se capita per dire qualche consegna con quelle bombole giganti, chissà dove devi salire, giustamente non ti puoi preparare la schiena e portarlo da solo, qui ci vogliono due persone. E due persone, porto io e porto. È capitato qualcuno che è rimasto nel ascensore e quella 25 gli ho salita tutto piano. Ebbene, la schiena si fa sentire ogni tanto, è ancora zitta. La mia schiena è sempre dritta, se no, cioè, non ho mai sofferto di mal di schiena. È fortunato, io sì, anche troppo, nei periodi in cui, dal 2000 fino al 2005, no, dal 2000 fino al 2006, lì sì, ma erano dei dolori allucinanti veramente, e ogni tanto già si fa sentire colpa dei pesi dei mobili alla fine. Quindi attendiamo dalle 8 all'1, dalle 3 alle 6 scaricando, ripeto, anche negli appartamenti senza ascensore, vabbè, lì eravamo in 3 quando c'erano degli arredamenti completi, però per il giorno portando pesi, specialmente frigoriferi, divani, letto, via nei scampi liberi, o qualche contromobile, basi enormi, guarda, che ce n'era da impazzire, a scalino sino a su, dunque alla fine gli sporti ogni giorno, per anni, già hanno fatto un loro dovere alla mia schiena. Cosa è? Questi lavori pesanti, devi, quando ci stai lavorando, la bevanda bisogna lasciarla perdere, perché se no non te ne viene gana di salirci le cose su, non te ne viene voglia, la bevanda bisogna lasciarla perdere. No, ma per quello durante il lavoro non bevevamo mai, la verità, poi giustamente era anche così. La mattina presto alle 8 entriamo a lavorare, è allegria e metti la birra come fa altra gente, un J&B appena si sveglia. No, no, se ci prendevamo qualche birrotto ce l'apriva il cliente dopo aver finito di scaricare, e poi 5 minuti di pausa e poi si iniziava a piazzare. Ma quello come ce lo offriva il cliente, se no niente, da parte nostra, quando entravi in casa del cliente iniziavi e finivi, se era possibile. Dunque non avevi neanche il tempo di berti qualcosa, chiedevi un bicchiere d'acqua, a volte ti offrivano Coca-Cola aranciata, perché non anche della birra, ma io sempre Coca-Cola alla fine. E poi a fine lavoro qualche bicchiere di birra già ci usciva, ma sempre a fine lavoro, ecco. Poi durante la lavorativa niente, acqua o alcolici, proprio alcolici zero, No, anche proprio si stai di breccia, perché sono lavori pesanti, io non so per così. Sì, per carità, poi c'era gente anche che, dietro una certa età adulta, che il biotto non mancava mai. Infatti non quelli sempre che non facevano mai niente, quelle persone anziane che ti mancava poco andare in pensione all'epoca. Tu contatti facevano qualche cacciavite, qualche vite e un bicchiere di birra, si scendeva giù. Ormai ero già abituato, o minimo mezzo imbriaguri, comunque per il resto ho già... Ho della fatica, poi il lavoro già era bello, va. Credo che è bello. Poi io invece no, non accetto mai nulla, non voglio niente proprio. Proprio devo stare tranquillo. Quando sono a casa la sera me lo posso anche bere. Magari andare più travagliente, no, non se ne parli. Anche perché fai brutta figura, lo ubriaco del vino, che ha da dare un cliente, o ioia. E infatti c'è anche quella alla faccia, invece lì invece mi sei tranquillo, pulito e onesto. Già va troppo bene, giustamente la figura bella devi sempre fare. Scappa. Ma la verità io no, ma ancora in mal di schiena non so. Qualche dolorino nel capolo, ma mi ha detto così. Qualche dolorino nel capolo, ma niente di particolare. Oh, già sono ancora giovane. Sì, quello sì. Ma io dovrei, ho fatto delle lastre, dovrei avere due vertebre consumate giustamente dai pesi, ma vedo che quest'anno, con la scusa che non sto più facendo quel lavoro, non ho più risentito di questi dolori. Poi intanto si fa sentire, mi prende sempre la gamba sinistra, me la blocca leggermente, ma intorpidisce mi. Scappa. E tu guardi la persona mia, cioè tutti i muscoli, tutti di la palla, anche nelle gambe, tutto muscoloso, è normale. Sì, quello sì, la bomba quando te la carichi sempre sulla spalla destra, te la metti, scommetto, o cambi, perché io ce l'ho visto, molti mettono sulla sinistra e sulla destra i pesi, avevo più una parte destra sviluppata che non l'altra. Parte dita io me l'ho detto. Mi scappa. Tu prova a indovinare quanti anni ho io, Guarda, non voglio esagerare, massimo, dai 27 ai 30 anni, non di più. 27 anni, 27, sei la Puglia. Io ho già l'età tua, ho già sposato un anno. E tu quanto me ne dai a me? Ho preso una quarantina. Mi vuoi bene. Sono del 74, quarantina. Ancora te ne vogliono altri 3 anni. Così vecchio sono. Perché 33 anni? No, 37. Sono del 74. Tu ho detto che per arrivare a 40 altri 3. Se sei giovane anche tu dai. Ma forse la voce che rimane un po' rauca, da quell'impressione lì. Cappa. Guarda, io qua sono il più giovane, sono il più giovane della frequenza. Alla fine sì. Ma no, pochi giorni fa avevo acceso l'apparato, c'era questo ragazzo, non mi ricordo, si chiamava Luca, non lo so, ma l'ho sentito un bel basso. Ma è nuovo di frequenza quello? No, che nuovo. Già è un anno che modula. Ogni tanto si affaccia. Luca, già ci conosciamo bene. E lui è più grande di te? Sì. Comunque ormai, vabbè, siete così basso, ma c'è un piccolo antennino, perché sinceramente mi sentivo parlare, ma allora non era appena che riuscivo a sentirlo, tirarlo fuori. Ti crepa, perché è vicino a me. Ma c'è un piccolo antennino, no? Diciamo, antenne nostre, là, un pochettino più discrete. Autocostruita. Autocostruita, è buono, vedi. No, io proprio che ho che niente, non c'è quel re, non sentivo per nulla. E beh, alla fine sì, sei più giovane della frequenza. Non ti credi che io abito da questa antenna, no? Infatti, se non ricordo male, mi stavano nel terrato, se non sbaglio, vero? Di quelle magnetiche. Una magnetica attaccata alla porta finestra di fuori. C'è una specie di lastra, dai, in ferro. E quella lì attaccata lì. E vedi tu, e ti sento benissimo, ma ci hai mai pensato per dire se avevi la possibilità di mettertela giustamente con un cavo più lungo sopra sul tetto? Guarda, lasciamo perdere che metto. Guarda, no, non voglio commentare. Ah, non sei in, diciamo, una casa tutta tua, sei in condominio alla fine. Sì, se non ho lasciato da parte, ce l'ho pronta l'antenna. Ebbè, lì, diciamo, non c'è un piccolo terrazzino tuo, personale, con una ringhiera dove puoi mettere una staffa e mettere lì l'antenna. Ero stato al secondo piano, già l'avrei messa, però sono al primo piano perché c'è uscito fuori subito, ma non al primo piano sono penalizzato, perché sono l'inquilino di sopra. Eh sì, è vero. E qualche altra soluzione? Adesso vabbè, io meno male sto cercando un po' di immaginare come il tuo punto, non c'è qualche soluzione, diciamo, per essere, dai, per avere un pochettino più di segnale, anche per una tua soddisfazione, non c'è una soluzione. Che soluzione c'è? Quello che esce, quello che non esce, se la piglia in culo, proprio detto in poche parole. Sì, quello sì, ma sto dicendo, al di fuori di quello, non c'è una soluzione proprio per piazzarti l'antenna nel muro della tua facciata, qualcosa del genere, in modo che gli altri non ti rompano le palle. Giustamente io sto parlando nella parte in cui tu vivi. Cappa. Adesso c'è un sistema solo, che potremmo prendere strangolati. Lo so, già è un bel problema vivere, diciamo, con persone non dall'arco della famiglia, lo so, è sempre un problema anche quello, il condominio non rompere tutte le palle. Cappa. Ho persone stronte che abitano qua, capito. Aspetta un attimo. Ia. Ciao Antonio. Fatti un modo a soccolare, va a fanculo, le chiese. Ciao, Antonio. Con una rimasta da per aula. La tua c'è la nostra tomba. Lì poco ci mancava. Vabbè, dai. No, non posso più ascoltare, ma non posso parlare. Ciao, ciao, ciao, tu se mi stai ascoltando, ciao. Ma sono carrivito, ciao Giulio. Ah, ok, ciao Giulio, sai che ti prego per la tante? Ciao Giulio, ciao Giulio, ti prego, 25. Un bambino giusto? Oh, perfetto, corrigimi se sbaglio. Una parte del tetto di regola non fa, diciamo, il tetto in generale, non fa parte di chi ci abita. Dunque, se uno se vuole mettere un'antenna di televisione se la può mettere benissimo, e se uno si paga il bollettino postale per il baracchino, no? Giustamente, sì, in regola, puoi benissimo metterla anche tu, o sbaglio? No, te lo spiegherò. Cosa c'è, amore? Mi stai facendo le... Oh, le fusa mi sta facendo. Cosa che aveva sentito la mia voce, vuole Giulio Dollaro, minimo. Scappa, non la gatta, mi stava facendo le fusa. Ma ho capito cosa hai detto, Giulio. Secondo me, è entrato con una voce strana, all'improvviso mi ha fatto scendere un colpo, dice che non può parlare, sicuramente, per non disturbare nessuno, che era in ascolto. Ti ho detto che chi ti frega per l'età è Gianni di Chiaramonti, canale 25. Gianni di Chiaramonti, canale 25. Che ha 25 anni, e il giovane tutti, Gianni di Chiaramonti, che ha 25 anni. Ah, sentitela il bombolo, mi sa che scende al secondo posto. Gianni di Chiaramonti ha 25 anni, dice, dunque lui è il più giovane. Ma, non ci credo molto, eh. Cosa ha detto lui a tu? Cosa vuoi che ti dica? No, ma ci si sente che è giovane. Gaffa, non lo so. Bisogna conoscerlo di persona. Non lo so. Ma poi dai, ti ascolto. Prendo, ciao, ciao, altro. Ciao, ciao. Finlandia. Aravidutu. Gaffa, ma mi senti bene lì a oggi? Guarda, qui nel Midland mi sta arrivando Santiago 5 e una radio di 4 con un fruscio di sottofondo, però sia abbastanza comprensibile. Già basta, sono 4 watt insomma. No, io sì, tu sei 4. Aspetta un attimino, vediamo se piazza di roba. Invece qua sto scendo con 3 tondi. 4, 3, la matta c'è cosa, dai, già bastano. Sì, poi strano, ma vabbè, adesso questo è il 68, poi c'è l'anno 44, che è l'origine, vabbè, originale, anche il 68, ma il primo baracchino esce con 2 watt e mezzo, non di più, è omologato lo stesso, questo esce con un mezzo watt in più, il 68. Caffa. Quando dai quella cosa di già basta per modulare, a voglia, se voglio aumento, ma cosa mi sta a fare? Sì, quello sì, no, c'è bello aumentare quando c'è propagazione, mica tra un po' di essi ti diverti, solo in quelle occasioni è bello da utilizzare, tutto il resto qua nel circondario va bene anche così, a voglia, ce n'è. Che cazzo, con pochi watt ci va lo stesso. Sì, quello sì. Io parlavo pochi giorni fa su internet degli alimentatori, ma Dio mio quanto costano, quelli normali. Poi ho trovato uno bello, veramente bello fisicamente, da 30 ampere, però è switching. E da molti ho sentito che sono abbastanza difettosi questi alimentatori, così per sentito dire, però ho fatto una ricerca, così delle recensioni di questi alimentatori, ma non ho letto nulla di negativo come alimentatori, tu, cioè quelli normali, vero, trasformatore. Capo, guarda, io ho il switching a casa, ed è perfetto, con 25 ampere, va veramente bene, non mi ha mai dato noia, però quello non lo uso io. Lui lo usa mio padre. Io uso sempre questo, il GPC 7 ampere, non ha strumenti, non ha niente, ma funziona come il primo giorno che l'ho comprato. Sì, quello sì, io ne sto usando la 3 ampere dell'avviso elettronico che l'avevo comprato insieme all'apparato, vabbè, questo l'avevo comprato a Ossi, l'avevo pagato 45.000 lire, me lo ricordo ancora, 12,6 volt 3 ampere, e c'è solo questo, l'altro si è rotto, quello vecchio, cioè lo si è rotto, e quindi sì, io ho trovato, questo modello qua l'ho trovato a 65 euro 30 watt, 13 volt, o 13,5, 30 ampere, 78 euro. E con il centro fame, qui c'era un bel po' di anni, o da poco ce l'ha, e funziona sempre bene, non gli ha dato mai problemi, ma l'usa abbastanza così a poche ore. Lo uso molto, lo uso, cioè, quando modulo lo uso molto. Schiaffa. Ma io dico una cosa, io l'ho pagato 60 euro un 7 ampere. 50-60 euro, non me ne ricordo nemmeno adesso quanto è. Stava fatto un ottimo prezzo Tonino, è un GBC e funziona bene, ce l'ho già da quando ho cominciato a modulare, da 7 anni fa, 8 anni fa, quant'è? Forse sì, 7 anni fa, e funziona bene. Sì, quello sì, quello che fa tra lui c'ha 18 anni. 18 anni e funziona bene lo stesso, anche se vabbè, 3 ampere dovrebbe essere quasi giusto per l'apparato, qualche ampere in più non guasterebbe. Sto facendo una ricerca, se tu li prendi quelli normali come quello che c'è tu e io, se lo vuoi prendere, guarda, proprio per essere tranquillo, massimo 50 ampere, cioè minimo ci vogliono quelle 300-400 euro buone, ti spara, no? Per un alimentatore di quel genere, che poi stiamo parlando di 800.000 lire. E invece se vai a prendere questi switching con per 30 watt danno a 68 euro. Quindi c'è una bella differenza, non capisco il perché. Vabbè, sono ignorante in materia in questo caso, però verranno confrontati a tutti normali un bassissimo prezzo veramente. Prova a chiederti perché, perché uno è fatto un alimentatore a scheda? È tipo alimentatore del computer e quindi il componente c'ha quello che c'ha e si sa. Questi invece sono alimentatore, c'è materiale per costruirle. Tutto qua è il discorso. Sarebbe bene se c'era qualcosa trovato qualcuno che l'avrebbe venduto in seconda mano, almeno risparmi qualcosa. Sarebbe uguale a essere completa almeno un 30 ampere massimo 50, non di più, avrei fatto bingo. Come fai? Sai, ti alimenti tranquillamente il baracchino, adesso per dire con questo sto modulando. Ti metti la mano dietro a vedere se non scala perché tira, 3 ampere piccolino. Poi vai che riesci a trovarti un, procurarti un piccolo linearetto, tu che ti puoi alimentare bene, apparato lineare, diciamo senza problemi. Caffa, ma vai da Tonino, te ne fai dare uno da 10 ampere, GBC, cazzo, lo paghi, non lo paghi tanto caro, sono buone. Sì, ma 10 ampere è sempre poco, quando ti prendo un lineare hanno bisogno, guarda, se ti prendi quelli piccolini, o dai 50-100 watt in AM, 200 in SSD, per dire un assorbimento di 20 ampere, dunque 10 sono troppo pochi. Dunque almeno per essere tranquillo un 30 ampere ci vorrebbe, almeno un 30 ampere. Dai questa fesseria. Eh beh sì, ho letto l'assorbimento che hanno alcuni lineari piccoli, hanno bisogno dai 12 a 14 volt e hanno un assorbimento di 30 ampere, di 20 ampere. Dunque 10 non, cioè, non ti bastano per alimentarti baracchino e lineare, 10 ampere è troppo poco. Ma lascia perdere le fesserie, che non sono fesserie quelle che ti hanno detto. Qua per esempio un 747 che quei 100 watt non te li dà. Guarda quanta assorbe, assorbe intorno ai 9 e 10 ampermi, cosa vuoi che assorba? Vabbè, poi ora metti che 747 ti assorba 10 ampere, ok, tutte le cose da 10 ampere da applicare il trasformatore, l'apparato come fa a alimentarlo? Non ce la fa 10, è troppo poco. Ti dimostro a te che io lo alimento con 10 ampere tranquillamente. elemento 2 l'ha parato. Praticamente perché va nel giusto, cioè sono giusti i 9, non me lo guarda, non me lo ricordo bene, ma in quale sono quella cifra, alcuni anche a 8, dipende. Io ti dimostro a te che io attacco l'apparecchio, attacco 747, è un 10 ampere vero, non di chi ci va giù, è vero, e ti faccio vedere che va bene. E riusciamo a andare tutti e due insieme tranquillamente, non è mai notato se surriscalda il trasformatore. Scaldare scalda, perché almeno, però ce la fa. Ce la fa tranquillamente, non lo vedi per dire, adesso so che ha fatto tutto usando e molto non li conosco, ma è la verità, c'è un piccolissimo lineare, ma per carità non vale due soldi. Facoltà, ho collegato, io c'ho un 3 ampere, giustamente, l'ho collegato all'alimentatore da un 3 ampere, insieme all'apparato, nel barattino si spegneva perché non, proprio non ce la faceva per niente. Ecco perché ho fatto la proporzione io tra alimentatori, dunque bene o male, mi sta buttando da 30 ampere, il gioco l'ha fatto, ecco. Scappa. Se parliamo di 20 ampere, 20 ampere è già un amplificatore minimo da 300, cioè, perché lo porta bene, cioè un 25 ampere lo porta bene un alimentatore, ma un amplificatore di quelli da 300. Ma tu ricordati una cosa, che l'alimentatore, per esempio 747 dice 100 watt, ma non ti darà mai 100 watt. Forse in banda laterale ti dirà, ricordati sempre quello. Guarda, non so cosa dire, però io dovrei avere qua, aspetta che guardo, il catalogo, eccolo qua, vediamo un po', no vabbè, ma questo 747 no, io ho il catalogo della ZG, il 747 è un'altra azienda, ma facciamo un esempio, allora vediamo un po', lo dico subito, eccolo qua, è la ZG, il B150R, e poi fa così, alimentazione, input 11-14 VCC volt, assorbimento 8-10 ampere, e ti dice qua potenza d'uscita 100 watt in AM, 200 in banda laterali. Beh, giustamente 100 watt puliti impossibile che te li dia, però questo modello bene o male assomiglia al 747, che ha le stesse caratteristiche, invece il 747 B150R però c'ha un assorbimento di da 8-10 ampere, vedi, eppure sono piccoli, come sembrano piccoli quanto un pacco di sigarette, ma questo assorbimento qua, così c'è scritto nella sua scheda. 10 ampere, gli assorbi in banda laterale, ma non in AM. Guarda, fidati di me, io te lo sto dicendo, in AM gli assorbi di meno, perché giustamente da meno watt, da... Guarda, fatelo dire a me, io l'ho già sperimentato in amplificatori, purché non lo sappia. È così, ce la fa, per forza ce la fa, se tu attacchi il baracchino, attacchi il coso, te lo dovrebbe portare, logicamente lo scalda, perché sei intorno a quella cifra, cioè scalda un pochino, però va, deve andare per forza. No, aspetta che lo metti, io non so queste cose. Siccome sono passato da Fusaro la settimana scorsa per prendermi un po' di sangue perché l'avevo finito, ma scusami, non so, approfittato, sono passato lì e ho chiesto un po' nella torre del catalogo, la ZG vede un po' cosa c'è e poi vado, vedevo un po' come alimentatori. Ma costano una barca di soldi, la verità. Da invece GPC la verità non ci sono passato. Comunque, quanto potrebbe... almeno 50 watt te li dai in AM il 747, o neanche? Sì, te ne dà anche di più, 60 watt, te ne può dare anche 70, e così AM, sono così con l'amplificatore. Alcuni ho sentito dire, dipendemi, alcuni te ne danno anche di più, alcuni di meno. Comunque, sono così, sono, cioè non ti credi, l'assorbimento di un 747 è quello, non ti credi che sia chissà che cosa, affidati, guarda, è così, è come ti dico io, però guarda che gli esperimenti li ho già fatti, ero giusto cosa è. Prendo io con quel B 150 che dici tu, io te la attacco con questi 7 ampere e va lo stesso, ti puoi immaginare, sono 10, 5, 7 di cosa, se non mi ricordo bene. Tu con 747 c'hai un bel po' e ti sei trovato sempre bene. Cos'è il miglior amplificatore di piccolo che sia sempre andato bene? Perché stavo guardando lo stesso, sono questi, lo stesso, linearetti, però fissi, no, per casa. Te ne dico uno, il più semplice, semplice, il B132, qui dice 100 watt in AM, no, scusami, 120 watt in AM, dice qua 240 in bande laterali, a transistor, non a valvola, e vogliono 180 euro. 180 euro, alla fine prendendo un 747 e un alimentatore da 10 ampere, come stai dicendo tu, alla fine siamo lì, anche lì sui, tra tutti e due spendere anche lì sui 180 euro. Gappa. E poi tu, volendo, lo puoi usare, attacca a gara, ci metti di multipatti a zero, penso che ce l'abbia il regolatore. Se butti infatti a zero e funziona lo stesso, cioè per non farlo scaldare troppo, hai capito? Sì, alla fine abbassi il vato dell'apparato, lo tiri il ciclo del lineare, sì, quello è vero. Ma mi serve anche un po' qua luce, mi viene, l'ho trovato su internet, ma anche come a Sassari, sui 58-60 euro, vero? Ha un valore del genere il 747. Che di più costa, mi sembra. Però ricordati una cosa, che dipende anche dall'erogazione che gli dai tu me, perché se tu gli dai, cosa adesso, tu gli dai un mezzo watt, quello lì esce, cosa adesso, esce a 50 watt, esce, capito? Tu magari gli dai 4 e già comincia a uscire un po' più forte, gli dai 10 esce ancora più forte, però dipende anche, c'è anche un limite, cioè, capito? Perché se tu gli dai troppo, allora comincia, la radio comincia a distorgere, bisogna metterti nei limiti, c'è cioè un massimale, cioè da, si può dare 5 e 10, hai capito? Però bisogna anche contare una cosa, che molti apparecchi, cioè 10, non gli devi mai dare, perché molti apparecchi escono così, escono 10, e magari fanno 12-14 di modulati, hai capito? Quindi sarebbe sempre meglio fare 5 e un discorso un po' complesso. Molti apparecchi danno di più di modulazione, hai capito? Sono, magari sono 10 di portante e sono 15 modulati. È per quello che molte volte la modulazione fa distorgere. Anche avendo un amplificatore buono. Sì, quello è pienamente d'accordo, già è vero, l'abbiamo fatto, più hai la possibilità di abbassare l'uscita dall'apparato e con un alimentare con lineare, diciamo la modulazione rimane compressa, è vero, quello sì, più basso sei e meglio esci, poi se trovi diciamo la combinazione giusta sei perfetto. Sì, il gas è quello con il in uscita, ma in Midland il 68 e il 44 non ce l'ha, e sono già così fissi, 3 watt massimo. Non so neanche se si possono piazzare negli apparati questi, diciamo, la regolazione dell'uscita del watt, ma non ce n'è neanche bisogno, ecco. Il gas esce a 10 watt, infatti ho provato, esce a 10 watt, giù, ma quasi giusti, e via. Adesso per dire, con questo, con il 68 uscendo proprio tonditon di 3, poi se da un fisco arriva quasi a 5. Sì, ecco perché, cioè, se li dai intorno ai 5 watt in un amplificatore, va bene, dai, per quegli amplificatorini così, aspettiamo per rivolgere bene, perché tu devi sempre, allora la gente non ha capito anche sugli apparecchi modificati, e quelli, ecco, Colt, ecco, quelli che sono una bomba, non hanno ancora capito nulla, non hanno capito l'importanza che hanno, che quelli devono uscire a 3 watt, ma quando tu lo dovessi, non so 3 watt, e quelli al minimo salgono a 10, salgono, o a volte salgono a 8, hai capito? Quindi cosa fa? Fa una specie, con l'amplificatore, fa una specie di accordatura, fa, che è una cosa micidiale di radio quando escono, cioè bisogna capirlo, hai capito? Molta gente non ha ancora compreso nulla, che quando tu li metti 10 watt, per dire, stai sporcando la radio, perché poi con l'amplificatore non ci va, devono fare un allineamento, devono fare, solo che ancora è capo di marraggio, non lo capisce. Sì, quello sì, ed ha ragione, bisogna distruggere alla fine, ecco, quando c'è, per dire, un esempio stupido, il microfono da tavolo, per dire, va regolato per uscire bene come amplificazione quando c'era, come l'MB+4 che sto usando adesso, altrettanto è altrettanto lineare. E ho fatto su internet, ma costa così su 58 euro più 10 buone disposizioni, vengono già 68, fa 70, da una settantina di euro. Tu lo prendi in mano, io l'ho visto dalla GBC 2 anni fa, ed è quanto un pacco di sigarette da 20. Minchia, cazzo, te lo guardi 70 euro questa roba. Per dire, con 70 euro ti compri un nuovo apparato e te li fanno pagare maledizione. Funzionano bene, funzionano. Ti sto dicendo che su, soprattutto quegli amplificatori, li hai sentiti tu quei cosi modificati, quegli apparecchi lì? Soprattutto su quegli amplificatori grossi e cosa. Poi quando devi fare l'allineamento giusto è una cosa micidiale. È una cosa, soprattutto per esempio il 747 è il più conosciuto, più. Soprattutto quando tu li fai l'allineamento con uno di quegli apparecchi, sono bombe, sono. Non bisogna saperglielo fare, molti non riescono a farlo uscire. Non riescono a farlo uscire perché non l'hanno ancora capito come bisogna farlo funzionare. E un giorno ti faccio sentire il mio, debbigli un asso fumare. Ascolta, invece si possono anche modificare questi lineari. Modificare. Io ho detto, questi 747 c'è la possibilità di modificarli, sono quel piccolo accorgimenti che uno può fare. Li fai a fare, se sono già bene. Appunto, allora, ma ripeto, la maggior parte delle volte, quando tu a volte la attaccavi lineare, usavi sempre il 747. Oh, lì c'è un'altra cosa. Non è quello, no, quella è tutta un'altra cosa, lascia perdere quello. Quello già lo so io che cos'è. Tu lascia perdere quello. Però io parlo di. Poi c'è un ragionamento da fare, dei calcoli da fare su quelle cose lì. Anche se tu non gli dai l'alimentazione sufficiente, che gliene dai troppo poca, cazzo, distorce, c'è poco da fare, vanno male, vanno. E così la stessa cosa. O gliela metti giusta la tensione, cioè o gli dai la tensione giusta, 10 ampere per dire, allora ci va bene. O se no, cioè, devi cercare di farle andare più bene possibile. Ascolta, tu che c'è la possibilità, quando attacchi quella roba lì, non disturba nessuno, o sbaglio? Proprio quello che mi secca, capito? Perché? Già provato e ha disturbato? Cosa? Non posso farlo io, devo uscire tranquillo. Non posso uscire con qualche prova così, ma niente di particolare. E c'ho anche nel televisore vicino. Ma la tua però, ma ti voglio dire, hai fatto mai la prova per dire a vedere se disturbavi qualcuno oppure no? O forse in punto in cui sei, che sei abbastanza chiuso, non dovresti disturbare. Ma hai fatto lei queste prove? Lo cosa è che non voglio farlo. Proprio per evitare, dai. Vabbè, ma sai, a volte io ci avrei provato, io personalmente, poi ognuno è diverso. Se non avrebbe disturbato, l'avrei attaccato ogni volta così. Non nessuno avrebbe avuto, diciamo, come è capitato tante volte, per dire che il produttore non ti ascolti, no, per dire. E non avrebbe disturbato a nessuno, senza dare nessun fastidio, giustamente penso che l'avresti attaccato ogni giorno, ma non per farti grande, ma almeno per avere la possibilità che tutti ti ascoltassero, se hai queste problematiche così. No, non mi attacco, perché qua a casa devono guardare la televisione, e io voglio che guardino la televisione, non voglio che vedano il televisore, ui, ma purtroppo ho messo il baracchino a capo. Ah, lascia perdere, va, lì già ti viene bene, due passi, un'uciata a terra. Modulami, hai capito? Vabbè, Bobo, non ti ho capito. No, che Bobo modula. Ah, tuo padre modula, ma non nella 27, no? La 27, dove già l'hai sentito, quel vocione forte, vela 1, non l'hai mai sentito? Vela 1? Già l'hai sentito. Ma quest'estate, è tutto bene nel periodo caldo, che erano belle giornate, fai aprile, maggio, giù maggio, giugno, ma una o due volte solo, ma non di più. Sì, ma già modulava tanto, solo che mi hanno fatto stancare. Vabbè, cosa c'entra? Non ci siamo di più, qual è il problema? Ma vabbè, adesso perché è impegnato a casa, anche io faccio quello che devo fare, con mamma e cose. Non sta bene, se no quando è libero già entra. Ma c'è un bel po' di tempo, vero che non modula? Lo giorno acceso. Ti giuro, non, vabbè, sicuramente non c'ero. Però almeno una persona in più ti fa piacere, vero che un po' la situazione è abbandonata, voglio, non ci arrendiamo noi, vero? Capo, e cosa vuoi fare? E lo sai cos'è? Poi chi c'è, chi non c'è pazienza, però almeno dai. Poi quando se ne va questo periodo freddo, già inizia la propagazione, già ti diverti. Che cappa! Me ne hanno fatto stancare anche lì me ne hanno fatto stancare, guarda. Cazzo, andava a fare vita, ci buttavano mille sopra, ma vaffanculo. No, quello già è vero, l'ho già cambiato più di una volta quando stai modulando, per dire, dai, c'è un po' di gente sul canale e stranamente senti qualche spagnolo, boh, fatta, il più forte, si mette a modulare, si mette lì a cercare di attaccare la conversazione e poi non ti hai neanche il tempo a te di provare, quello già è vero. Tra le palle, un po' di volte, cioè, stai modulando, magari si è riuscito a collegare qualcuno, come è successo, perché cioè, quando adesso faccio sul 45 grandissimo, cioè se facciamo sentire abbastanza, cazzo va a modulare la vacca, da poi figlia, bro, cazzo si muove di tu, ma ascolti, ecco, ma chi non sa male. Sì, quello c'è, vero, poi quando si mettevano a parlare, gente che ha anni, senza anni, va. Da congiornamento alla fine una cosa e l'altra, c'è fatto un anno, quando capitano queste occasioni e poi molti ti cagano, stanno lì a ce la mezz'ora e poi alla fine sei costretto a cambiare canale, vabbè, va bene o male, già ce ne sono 40, è capitato anche sul 40, sul 20, dai, fagnolo già, bene o male, cerco un po' di farti capire, già è abbastanza divertente, e aspettare la giornata giusta. Ecco, poi già ne ho collegato pure io l'estate. Sinceramente sono un po' stoglionato, un po' di tutto anche. Non sai come. Vabbè, cosa che ti dica? Quindi ci siamo lì, ma c'è qualche altra persona, altre persone per dire. Ma va bene lo stesso, io già non ho modo, la verità, io, ripeto, nel 93 me l'ho comprato, e sono stato, la verità, un bel po' di anni, un bel po' di anni che modulavo, ma lì c'era molta più gente, c'erano molti amici di Itti, io e a Puglia ci andavamo ogni giorno lì a festeggiare, era una bella Itti, stava veramente bene in quei tempi. E poi tutti i canali erano completamente pieni, a Puglia ce n'era, poi è stato quanti anni sono stato, almeno 3 annetti buoni che avevo bloccato, poi avevo ripreso un anno, ribloccato di nuovo, un giorno mi sentite il pallino e tabacci che mi ricollego di nuovo. E ero fatto che attaccare il baracchino perché il cavo era sempre a casa. E ho notato non usciva, salvo solo comprare l'antenna era completamente, come si dice, mangiata dal tempo, tutta incrostata, piena di ossido. E ce l'ho buttata via e avevo preso quest'altra. No, ormai adesso c'è la stazione fissa come sempre piaciuta a me. Non la mollo finché campo. Campa. Ma finché ce ne ha voglia, voi? Sì, quello sì, e poi questa c'è anche una settimana senza Zaria c'era a mezzare. Poi in piedi già fa piacere fare un po' di anticamera, va. Una piccola chiacchieratina fa piacere. Campa. Un po' piacere sempre, ecco, un pezzo di cioccolato mi sto mangiando. Una tazza di latte e due biscottini andando, e due clementini, boh, io sono a posto. Cioccolato bianco lo stavo assaggiando per vedere com'è. Il gatto non si è avvicinato, stranamente quando gli animali vedi che stai mangiando subito si agguantano. Che millia la gatta. Cosa c'è quella? Vieni qua. Sta guardando, sta sull'occhione. Ma era andato il cioccolato, sì. Dov'è? Dimmi, alza la magna. Capito. Mangia cos'era? Cioccolato, sì che me l'ho mangiato. Sì, ma non prima, il gatto, alza la magna, ha detto, ma come l'hai mangiato il cioccolato? Come mangiano? No, se mi sono ricordato, a volte rimane anche Pompu in ascolto, vediamo se dà un calo, ci dà un colpo, Pompu! Poi da gigante e marca, ma vabbè, ci dobbiamo sorprendere i pesci, ma... Mi sono pettuso i gatti, però quando stai a mangiare, a me invece il cane è molto più affettoso del gatto, secondo me ne abbiamo uno, un pincher, ce l'ho regalato, ho trovato una cucina con Pini e non ho riparlato col cane perché stavano prendendo, comunque è andata bene lo stesso. E ci abbiamo 2 annetti, è già abbastanza affettuoso, anche troppo. Ma in bagno tu ce l'hai dietro, non ti molla 5 minuti. No, lei di tanto passa e mi fa le fusa. E che brava, Tu capisce tutto, mio ragazzo. Anche il gatto, sono molto intelligenti, sono. È intelligente anche il pugno della lezione. Comunque rimane sempre a casa, non la fai uscire da casa, no? Veramente no. Sempre in casa rimane? Sì. Io ho conosciuto questa signora che, ha senso che prendo una sigaretta, conosciuto questa signora, vabbè, quando stavo piazzando i mobili, aveva questo gatto che era una cosa impressionante. Io pesavo una 20 kg, faceva solamente paura a vederlo, che andava quant'era gigante e grasso questo gatto. E da quando è nato non l'ha fatto mai uscire dall'appartamento. E così per caso un giorno gli è fuggito perché ha lasciato la porta aperta, ma stava uscendo pure di testa, sono andati noi giù nella rampa di scale per prenderlo. Talmente ero abituato a rimanere in casa, che appena usciva pure ci sclerava l'animale, è per quello che te l'ho chiesto. Assolutamente no. Assolutamente no. Entra in casa, così alla fine, è costretto a lasciarlo lì. Sì, però per la casa, gira, va. Sì, quello già è vero, ma con quanto altri gatti, come ce ne sono qua in paese, anche a Sassi, lo stesso che è una vita che stanno fuori, sembra che stanno molto meglio, poi quando si fanno l'abitudine in casa già, ormai loro territorio, da lì non escono più. Gatto. Ma è una leonessa, se la vedi. Non è con te, ti fa compagnia la notte, no, ti sta dei piedi. No, la notte va fuori, lei. Ma invece no, tu si corica lì, ai piedi del letto, pure le coperte, se non lo prende a cacciare, se poi dorme lì. tranquillo e pacifico. Anche se mi sono sempre rifiutato con mia moglie, la sala lì, che non dà fastidio, è pulita, non sporca ormai, è di famiglia. E lì, come ci corichiamo lì subito, si vede il letto, si arroccola e è stato bellissimo di domani. Ce la mette anche voi la ragazza? No, ce l'ha il cane, il pincher. Oh, caffa. Ma lei si è già sicurica, ma sono io che non voglio. Vada col nero almeno. E infatti lui va, si salta, si bisciglia, va, cioè si perseguitano per tutta la casa quando giocano. E lui si fanno compagnia a vicenda alla fine, sì. No, già fa piacere, poi guarda, quando ti prende l'abitudine a avere gli animali in casa, specialmente cani o gatti, ti mancano, non stai tanto bene, perché ormai anche l'abitudine è via. No, già fa piacere averli, per carità. Adesso già abbiamo 2 annetti. È da poco che ho passato il calore, stiamo cercando un maschio, ma stranamente qua in paese non ce n'è neanche un maschio di quella razza lì. Scappa. Lo sai cosa le fa? Lui le salta sopra, le fa l'agguato, dopo lì prende, lo perseguita, gli salta sopra e lo schiaccia, perché lui è un mingherlino a confronto a lei, lei è una di quelle europea per lungo di quelle pelle, mi hai capito? Lui invece è un mingherlino, fanno ridere tutte e due. Un bel di volte lei si lancia, si butta sopra, boom, e lo vedi schiacciato. Ragazzo simpatico a voi, a tutti e due piccoli ce n'è però, no? Non sono grandi di età. Lei ne ha 5, l'altro ne ha 2. Il maschio. È un maschio e una femmina, già va bene la coppia, dai, almeno che ci fanno compagnia, la fa piacere a Buglia. Comunque gatti niente ancora, non ha partorito nulla. Cosa? Si sono sterilizzate. Ah, ecco. E non sono diventate grasse? No, è normale, non è grassa, è normale. Cioè, è grande di statura, perché è grande, va un capo. Però grassa no, perché gli diamo a mangiare. Lei mangia quando ne ha voglia, mangia. Non è una di quelle gatti che tu metti e mangia. No, non funziona così. No, meglio così, perché là dicono che quando gli animali sono sterilizzati tendono molto a ingrassarsi, capito? Per quello che te l'ho chiesto. Dipende come li abitui. Se tu li abitui a mangiare a macchine, cioè loro mangiano, cioè li devi abituare a mangiare poco. Sì, quello sì, scommetto scatolette o crocchette. Noi al cane non c'è il verso, meglio così. È capitato di prendere le scatolette, ma proprio non le mangia, né scatolette né crocchette, basta, legando la lingua. Mangia quello che mangiamo lui. Mai comprato di quelle cose perché altro non le mangia, meglio così. Scatolette e crocchelle, le do più crocchelle io perché voglio che mangino duro, capito? Perché è giusto che mangino duro anche per farsi denti. Sì, quello sì. No, è il tuo cane Chanel, che ho chiamato Chanel, femminuccia, no, non c'è verso, non gli aggrada, perché poi ho capito, ho aperto una scatoletta, ha un odore di, manco carne sembra, sinceramente, sai come la fanno quello schifo di roba, ma un odore veramente di merda, guarda, di vomito che è pauroso. Comunque, come è capitato l'orrore, poi lo lascia lì e non ne mangia, può stare anche 3 giorni senza mangiare, lì non ne tocca, non c'è rimedio. Lo so, ma dovrebbero mangiare quelle, dovrebbe mangiare anche duro, anche croccante. Dovrebbe mangiare loro. E guarda, ti giuro che il nostro si mangia i clementini, non ci conosciamo i clementini, e la morte sua mangia clementini, le mele e le pere. E le patatine fritte poco le piacciono, è allucinante. No, la frutta gli piace abbastanza, sai, infatti quando mangiamo clementini uno, due o tre buoni se li mangia, però quando li devi sbucciare e lo spicchi lo devi aprire a metà, li devi tagliare in due, se no non, così non ce la fa a masticare, che è troppo delicata, la signora. E comunque 3 buoni se li mangia, gli piace molto la frutta. Beh, no, dovrebbe mangiare. già con la roba. Si giuro, una grata perfettamente in linea, poi la mattina, ecco, adesso mia figlia è a casa, che le scuole sono in fiere, la porta lì a fare la sua passeggiatina, sono io la sera. Va bene, tranquilla, perfettamente in linea, non per niente grata, abbastanza lineare. E mangia la roba che mangiamo lì, vedo che è tranquilla. Grazie. Ma com'è stata tua figlia, Antonella? Perché mi ha detto che ho sentito che è stata molto scappata al cane. Va bene, la verità, visto che si è ripresa abbastanza. L'unica cosa che gli è rimasta sotto l'occhio, sotto la palpebra inferiore, una piccola pallina. Infatti adesso il prossimo mese, il 15 di gennaio, c'è l'appuntamento. Vediamo un po' se può fare qualcosa, perché mi hanno dato questa crema anti-ughe, boh, dimmi tu, che serve per elasticizzare la pelle in modo che guarisca molto più in fretta. Diciamo, la cicatrice a bene o male non si vede più perché è stata operata, solo che ha questa piccola pallina sotto l'occhio. Questa dice che è dovuta all'operazione, ma vediamo un po' se riusciamo a farla sparire. Poi per il resto, grazie a Dio, è già andata abbastanza in fretta. Ah, meno male, dai. L'importante è che non sia successo niente di grave. È grave sì, perché l'ha musicata, però sai come. Ma quanti anni ha? Paletta, 9 anni. 9 anni, 10 li fa il 3 di gennaio. E via. Morella è come tutti i bambini, ma è normale, pure il resto già. Dai, nel peggio è andata anche abbastanza bene, dai, un bel po' di favetto alla fine, tra una cosa e l'altra, che poi non è stato solo l'occhio, anzi non è stato l'occhio, che è la cosa più principale, per fortuna se non ha perso la vita, per carità, però bisogna aspettare 7-8 mesi per vedere se dai, non ci sono complicanze nell'occhio. Poi l'ha presa al naso e a tutte e due le braccia, l'ha completamente massacrata. Vedo che è abbastanza tranquilla, non è. Sembra che non abbia avuto traumi, ecco la verità, da questa impressione, ma siamo sempre sotto controllo. Che affa, guarda, sei troppo calmo, Antonetto, il carattere che ho io, se avrei visto la mattina così, guai, e te la sarò anche a capo, lo dico sinceramente. Guarda, calmo per modo di dire. Alla fine lo spavento, la preoccupazione, l'ansia, dai, un po' di tutto, guarda che non, la verità non sono stato tanto bene, poi alla fine cosa fai? Te la prendi col cane, quando poi alla fine il cane non c'entra niente, colpa del padrone che non gliene fregava niente. Giustamente è partita la denuncia lì dal pronto soccorso e via, se ci sono complicanze all'occhio paga, se no se fa tutto bene la soccorre, non interessa, non interessa che mia figlia stia bene, ma e poi alla fine cosa ti arrabbi a fare? Se gli metti le mani addosso a lui cosa le fai? Io ammazzo il cane, cosa risolvi? Purtroppo non risolvi niente, le persone devono imparare a gestire il proprio animale, si sa come a volte gli animali, specialmente i cani, anche piccoli e grandi a volte si girano, sono abbastanza imprevedibili, un po' come tutti, giustamente se sei tu il tutore, e cosa ti arrabbi a fare? Cerchi di stare vicino a tua figlia e farla guarire il meglio possibile, darla adesso a dei dottori che sa, che rimettono le mani addosso come si deve, la guariscano, quello è l'importante, poi l'attenzione giustamente rimane, non la puoi fare altro. Ma guarda, io sono fatto così per il carattere che io, cioè fatto, gliene butto la porta al padrone, ti sto dicendo che succede un casino. Perché se io vedo la bambina così io non capisco più niente, cioè perlomeno, cioè, non sono mai stato un padre, però me lo posso immaginare cosa vuol dire. E quando lo sarò voglio che nessuno tocchi la mia famiglia. Io guarda, per il carattere che ho io parto in quarta, cioè non vedo più nulla, non vedo nessuno. Cazzo, come dice Giacuria, cioè che su cane è meglio che non si faccia vedere, perché guarda, ti sto dicendo che esco di testa, non capisco niente, quando succedono quelle cose non te lo puoi immaginare. Sono pienamente d'accordo, guarda, meno male chi è che un po' di cattiveria non ce l'ha, e anche io stesso quando mi giro le palle già, non sono una persona tanto tranquilla, adesso per dirtene una, ma questo è stato un bel po' di anni fa, per dire, c'era questo tipo che mi rompeva sempre le palle e lasciavo correre, perché sono dei tipi che lascio correre, non so lì io attaccarmi, non è che mi piace tanto le mani, ma questo qua qualcuno ne approfittava perché lasciavo perdere io. Per me mi ha rotto la palla, va tornato a casa la mamma, ha preso il martello, gliel'ho tirato a testa e gli ho spaccato la testa e mi ha fatto una settimana e mezza all'ospedale, per dire. Ecco, anch'io meno male, se anche mi condigino veramente le palle, già faccio cose che non dovrei fare, dunque guarda, preferisco stare tranquillo e evitare il più possibile, poi se ci sono delle circostanze che veramente, ma veramente ci bisogno delle mani, allora già delle su usare, già non c'è problema, ma io preferisco usare sempre alla fine, cercare di evitare e risolvere il problema, diciamo, con le parole. Le mani è sempre meglio tenerle in tasca, però al momento in cui mi devo difendere già mi do da fare, non ce n'è problema per quello. Ma guarda, io la penso così, la penso, se ti toccano tua moglie, tuoi figli, le persone più care di questa vita, cioè, cazzo, guarda, ti sto dicendo che mi trasformo, non capisco, non me ne frega nulla, né di denunce, nulla, lo sai cosa vuol dire? Niente, cazzo, parte in quarta, cazzo, disagumeggio quante esiste. Perché secondo me è la cosa più cara di questo mondo, secondo me. Sì, quello sì, sono d'accordo, ma già mia moglie era, guarda, lasciamo perdere, quanto era preoccupata, i pianti che ci ha fatto, la preoccupazione e tutto il resto. Immaginati tu se io, per esempio, mi sarei alzato con quello sbagliato, mi sarei andato a casa sua e avrei fatto casino. E cosa ha dato? Un'altra mazzata mia moglie, no. Ho lasciato perdere, sono stato vicino a tutti e due, dai, ho fatto... Mi è sembrato di aver fatto la cosa più giusta alla fine. Poi avrei tirato così acqua sul fuoco, no. Ho preferito, dai, tenere la calma e pensare a mia figlia. Te ne racconto una, di una persona che non posso fare nome, però te la racconto così in breve. Questi due stronzi facevano porcherie, facevano... Ho preso gli ovetti al padre, si incazza quest'uomo. Tu devi vedere, cazzo, guarda, mi balzava dappertutto, è diventato una bestia, è diventato, c'è giorno, invece entrare in casa, cazzo, guarda, succede una carneficina. Era indemoniato. C'è una fase in plastica, l'ha distrutto a testate, non capiva più niente, ne hanno... sono venuti 6 pattuglie di polizia a fermarlo, le stava distruggendo tutto. Sì, Dio mio, che è incazzato tu? Pazzo, tu devi vedere quest'uomo, che cosa era, una bestia è diventato. Perché praticamente avevano ragione, si sono spaventate anche perché ha visto il padre che è diventato una bestia. Quando gli hanno raccontato che questi due porcaccioni gli facevano vedere le cose porche. Ui! Guarda, in queste occasioni già è vero, già 10 pure di testa. Poi stai lì a calmarlo, allora stai lì a parlare, se ti metti in mezzo ti passa anche tu che non c'entri niente. E per i piedi andatene via così. Ho cercato poi di farlo calmare, l'hanno preso. Ti sto dicendo che il giorno è successo un pandemonio, è successo un casino nero. Tu devi vedere, cazzo, te ne presenta l'uomo ragno? Stava entrando dentro casa, cazzo, a... Cazzo, l'uomo ragno sembrava alzando nei muri. Dio mio, no. Ma questo è successo un bel po' di tempo fa, alla fine, dai. Ha preso una abbastanza lunga il giorno minimo. Non te ne immaginavi neanche che si girava così, vero? No, io già me lo immaginavo. È qualcuno che non se l'ha immaginata, che conosco. Guarda, è una brava persona, cioè, è tranquilla e cosa, però se quando sente quelle cose si trasforma, proprio diventa una bestia. Allora sai cos'è anche? Ma tu l'ho notata anch'io, anche per il mio carattere, perché per un male ognuno si conosce, no? Sta un po'. La persona va a fare che c'ha dentro, c'è poco da fare, perché ci nasci, però il brutto lo sai cos'è? Le persone più, secondo me le persone più tranquille sono le più pericolose. Ma diciamo che, vabbè, te lo dirò in verticale, però quel giorno c'era tanto da reagito io così stesso, c'era troppo ragione. Cazzo, ma stiamo scherzando. Poi quando gli ha raccontato tutta la storia, pure la poliziotta è diventata nera in faccia. Poi alla fine giustamente le ragioni non gli hanno fatto niente, no, a lui. Da rifattere, non gli hanno fatto niente. E sono tutte storie veramente qua, meglio farne fuori, per carità. Scappa. Ti sto dicendo, guarda che quando gli hanno raccontato la storia, quelli riusciva il fuoco dagli orecchie, e il fumo dagli orecchi riusciva, da quanto si adirata. Ma rubato era, indemoniato era. Minchia, tu hai fatto bello, cazzo, riprendere la telecamera, amico. Dicevo, ma lui se ne è accorto il giorno come si è girato, Per vedere tutto quello che è partito, cioè tutto quello che ha lanciato in aria, veramente era nervoso quest'uomo. Oddio mio, guarda, per carità. Babbo, buono, mi ha fatto piacere, c'era me dare con te, io ti saluto, che vado a coricare mia figlia, che in pigiama mi sta chiamando a accompagnare a me ancora là, ancora piccolina. Babbo, se domani coincide ci sentiamo, dai, buon proseguimento e un buon lavoro per domani. Ok, a domani allora. Ciao, buono, grazie. Ah, un'ultima cosa, lo sai cosa ho fatto l'altro giorno? Ho preso uno spinotto di antenna di televisore, un PL, un barilotto per attaccare due PL, ho attaccato l'antenna del baracchino, funziona, per la TV. E prende bene. Bene, prende bene. Prova a farlo anche tu. Ma tutti i canali ti fa, senza curartene altri. Li prendi normale come l'antenna del televisore. Bene, prende bene, tranquillo. Certo, funziona benissimo. Ho preso un marinotto, ho preso uno di qui, un PL, poi un filo, il filo e il filo dell'antenna. Ho fatto tutto, ho messo tutto insieme, non faccio altro che attaccare il PL e via, funziona la televisione. Ah, sempre diciamo con l'antenna che stai andando tu al baracchino. L'antenna del baracchino. E quella che c'è tu nel linea davanzale, quella stai utilizzando, quella hai utilizzato. Ma quella lì, ma l'ha provato anche una persona con l'antenna grande, funziona benissimo. Dai, vabbè, se capita l'occasione già, se ti vuoi sperimentare. Però in realtà non ci avevo mai pensato, è la verità. Ma la vedere cosa ne esce. Io ce l'ho già attacco, Gli mettiamo fuoco. Io me ne sto andando e tu non hai più bisogno, ti fai sentire, ti ho fatto chiamare, se no sai mai che mi siano ascolto, invece io ne ero andando a diarrea, va bene, non detto. Se sei in compagnia di bombo, io sto andando che sotto la mia bambina a nanna, ci sentiamo domani, dai, buonanotte a tutti, ciao Pompu. Va bene, ciao bombo, ci sentiamo alle prossime allora. Ciao. Pompu. Dimmi a tu. Fai tu l'esperimento. L'ho già fatto, quell'esperimento l'ho già fatto. Funziona? Sì, che funziona. La tua macchina funziona bene per TV. Esperimento riuscito. anche tu. Va bene, che chiudo qui, ci sentiamo domani. Stammi bene, buonanotte. Ma quello ti va bene quando non ne hai in certi punti, prendi attacchi chissà e via. E com'è il segnale, Pompo, com'è? Mi chiarivi bene, Santiago, può essere qua. Ma il segnale di digitale terrestre? Ah, per una baracchina, non guardava per cento. No, buono, buono, anche con me, 100% sui canali Rai e... 85% con tutti gli altri. Ok, buonanotte, ciao ciao. Via, ciao a tu, buonanotte, ciao.